deve stare attento a cosa metti, fare bene le saldature, utilizzare fili di rame grosso per fare le connessioni tra gli attacchi APL eccetera eccetera. Però è bello, fatto bene, infatti adesso mi segno questa pagina e me lo scarico questa pagina qua. Poi se c'è qualcuno capace di aiutarmi a dire mi usa questa roba al posto dell'altro, magari mi faccio aiutare, sempre che non si trovi già a posto. Ma questo è bello perché se è uscito è tutto stagno, poi non ha dei problemi di acqua. Guarda, ti dico, ribadisco che non è difficile farlo. Potresti chiedere l'input sia a Marco che a Massimiliano, ma so che anche Fabrizio aveva visto una cosa del genere e se l'aveva costruito lui, non so se l'ha fatto da palo o addirittura interno, perché non è difficile da farlo. La componentistica chiaramente devi stare attento per la parte dell'alimentazione, lì ci devi lavorare bene, mettere ciò che serve per far sì che sia tutto ad hoc per quanto riguarda la connotazione poi degli stacchi delle antenne. Ma la commutazione dei PL è praticamente fatta a barre di rame grosso, perlomeno quello che avevo io perché l'avevo aperto, e sono tutti ponteggiati uno con l'altro. E poi praticamente ne scende uno, no? Tutti i ponteggi, poi ne scende uno centrale, dove andava, adesso non mi ricordo, a collegarsi in un sistema di commutazione elettronica, ecco. Quindi devi vedere bene lo schema, devi vedere un pochino come la situazione, poi sicuramente non è difficile da fare. Usano assolutamente quelle scatole stagne della BTCino o addirittura quelle scatole stagne che vende anche Fusaro per la costruzione degli alimentatori. Sì, non le avevo viste queste scatolette qua, le ho sempre viste in plastica, però questa è proprio in metallo, anche come robustezza mi sembra di lusso, non le avevo mai viste. Vabbè, ma c'è scritto BTC, non sicuramente già la trovi facilmente. Sì, quelle semplici, se tu vuoi le Elcon ce l'hanno, noi le compriamo per quando facciamo delle scatole stagne esterne per magari una derivazione di qualche pompa, di qualche sistema esterno, insomma sono delle scatole stagne che ci sono sia in metallo che in plastica, dove sono le quattro viti, tu le chiudi, c'è la guarnizione, assolutamente non entra acqua perché il connettore dell'alimentazione ha quel praticamente adesso mi ricordo come si chiama, c'è un nome specifico, che praticamente entra in cassa di plastica dove tu poi fai correre il cavo dentro e se lo tiene stretto a morte la passa. E poi sotto c'è un alimentatore a 12 volt per farlo funzionare, per commutare così qua. Esatto, quello mio era fatto così, non è difficile da farlo, si tratta appunto di capire e di vedere qual è il sistema per l'alimentazione. Poi per quanto riguarda i connettori è un semplice commutatore che è semplicissimo fare, già l'ho visto come sono fatti i commutatori, dove poi chiaramente devi mettere il commutatore, insomma, per commutare le antenne interne, lì invece fa sì che ci sia un sistema di alimentazione che ti vada a commutarsi elettronicamente. Ma oggi non c'è nessuno su 10, attenzione, canale 10 che vuole entrare. Non so, io sono tutta la sera con il radio, ho fatto due chiacchiere con Massimiliano, con Sandro, qua sul 10, poi sono andati Massimiliano a cena fuori e Sandro non so cosa stava facendo, ho entrato Capri ed è andato a sistemarsi, nel frattempo ne ho approfittato per prepararmi per la cena e poi sono di nuovo qua. E ogni tanto c'è qualcuno a entrarci a due chiacchiere eccetera, magari ci sia tutto questo grande traffico. E ti volevo dire un'altra cosa, lunedì andiamo a ordinare quella cosa che abbiamo detto, vabbè, nella festa con Pigia, che tanto io lunedì alle 4 rientro, quindi appena mi sbrigo passo un attimo in officina, facciamo un salto e lo ordiniamo. E a se voi posso andare domani mattina? Ma ci lavoro io, non so che ora mi sbrigo, devo andare alle bagno, devo caricare dei cingoli nella furgonetta, dei cingoli con in pratica del mini scavatorino, perché lunedì mattina devo andare alla Borea a comprarli. L'unico lì c'è un corso che prende questi affari, che abbiamo il mini scavatorino con i cingoli ingommati riesce a lavorare, allora li ho fatti tutti pulire, una mattina vado a caricarmeli e quindi non so che ora esco, se non so una batteria la mattina, ma guarda, io alle 4 3 e mezza sono a 4, ci rientro, io penso che sono le 4 e mezza, alle 5 sono già libero, 2 minuti passo a prenderti una volata e scendiamo e la ordiniamo, capito? Così arrivo prima di Natale e facciamo quel lavoro che ti ho detto. Cappa, non ti preoccupare, non c'è problema. Quindi da lì è sceso al campo, però non mi ha portato sul campionamento. Ma mazza, che mi riguarda, là un capo dovrebbe dire. Anche oggi era ridicola, siccome molte volte si è indappato, stai pensando ad altre cose, e un amico nostro l'ho telefonato, siccome è sempre difficile trovarlo al telefono, ha detto guarda, 5 minuti sto scendendo, io gli ho fatto infatti, gli ho detto dai, fa una cosa, facci tu a scendere che c'è gente in officina, da 5 minuti sono di lì, dopo più di un'ora ce ne era giù al Moderno, lo doveva prendere, dopo un po' di ore, non sei andato a prenderlo, a prezzata, a mezzo di mettica, l'ho chiamato, gli ho detto vado a casa, ha detto mamma, tu sei gabbizzato. Ma io me ne accorgo perché la mattina a volte ci troviamo ad Andrea, no? Prima di l'officina lì, 7:30, ci troviamo ad Andrea prima del caffè, dove esci tu, dove abbondiamo. Dani, ma vedi mi scendi, boh, non so, c'ho un sacco di cosa fare, non so a che parte iniziare. E io lo so, poi è sempre meno di roba, ma già l'hai vista. Mamma mia, guarda, vabbè, dico che ci vuoi fare. Purtroppo, vai, lì purtroppo padre in questo periodo è assente, lui è anche un po' preoccupato per l'altra situazione che lui vuole capire. Io lo so, infatti qui è una cosa che si collega con tutte le persone, con tutta la famiglia, non è solo dice c'è un problema, però si percuote con tutti, già lo sai. Tu già hai avuto esperienze per il fatto del lavoro che faceva tua moglie, già lo sai. Come si comportano certe situazioni? Io ho vissuto quello quando Anna era lettera, ma l'ho vissuta in prima persona quando via Pascoli mi sono dovuto portare il mio socio perché qua non c'era finito più di lasciarla, prima di 5 minuti ti chiamava, venivo, la trovavo in terra, insomma era un casino. E quindi alla fin fine abbiamo deciso insomma di portarmela giù anche perché qua c'erano delle cose da fare, dei lavori da fare, quindi non potevamo rimanere, allora mi sono dovuto spostare e poi quando è tutto finito sono tornato qua, ma l'ho vissuta in prima persona, vabbè, quindi capisco perfettamente che insomma anche lui è preoccupato, non può voler toccare molto giù in questo periodo. Lo so che è una cosa atroce, quel tipo di malattia è una cosa molto molto brutta e purtroppo non c'è margine di miglioramento, sempre peggio, me ne accorgo ogni giorno, sono cose brutte, vabbè cambiamo argomento, se no sembra che ci rattristiamo ancora di più. Poi cosa ti volevo dire di altro, ti devo sempre cercare, ti ho detto quando capita, adesso devo chiedere a questo amico quel pezzo della macchina tua, te l'ho promesso e te l'ho cerco. E quando vengo lunedì lì da te, ti dico una cosa che mi hanno regalato a me, ho chiesto l'autorizzazione e mi ha detto sì, tranquillo, Roberto verrà a provare, ma è una cosa spettacolare, è una cosa antica che tu manco qua, ti puoi fare 1000 domande, non hai risposte perché sono rimasto a bocca aperta io solo a vederla. Solo a vederla, tu mi sei collezionista, ma solo a vederla sono rimasto a bocca aperta, cioè a pensare che si potesse usare una cosa del genere nel periodo della guerra è veramente allucinante. Ti rimetto il cambio e fai entrare Antonello, poi ci andiamo a mangiare. Sì, vabbè, poi mi dirai di cosa si tratta. Avanti Antonello, buonasera. Cappa, sarà un vasino, anche mille di quelli del tempo di guerra. Si riempiva e si buttava dalla finestra. No, qua stiamo parlando di cose più serie, Antonello, buonasera. Stiamo parlando di cose serie. No, non è uno scherzo veramente, ma quando lo vedi, vabbè, io sono rimasto, no, ma non è possibile, cioè, ma come si faceva a ad usare certe cose, ma veramente spettacolare. Te la do perché io ne ho un'altra un po' più piccola, però insomma più o meno di quella serie lì. Ce l'ho ancora nella macchina, nella cassetta, con altre cose che poi ti faccio vedere, che mi hanno dato, io qua. E pronto, arrivo, io qua ho rinnovato tutto, quindi non metto più niente, sto aspettando a Giulio per venire a casa a prendere delle misure, e a fianco dove c'è il computer faccio, Giulio praticamente ha avanzato del materiale di queste basi, quindi per farlo uguale mi fa un piano per poter mettere tutte queste cose. Va bene, ti saluto, allora ci aggiorniamo lunedì, ricordati, io ce lo vedo domani a Danilo, se passo ad Andrea, glielo ricordo anche io, comunque ricordali anche tu perché così completiamo la parte delle analisi e vediamo un po'. Qua sono tutti raffreddati. Saluto Antonello, chiunque fosse in ascolto, se coincidi a dopo, altrimenti vabbè, ci aggiorniamo telefonicamente e ci vediamo lunedì, ok? Va benissimo, ok, buona carica, buon tutto, ciao. Avanti Antonello per Claudio. Sì, ya, ciao Claudio. Buco che tipo una cena. Non è possibile. Ciao Agava. Ciao Roberto Alba. La questa mattina ho comprato una di quelle antenne lunghe, che era 25 e 20 UHF. Quelle che si usavano per vedere la TV francese. Quelli dei coglioniti del coso hanno preso i pannelli di dietro di riflesso, evidentemente mi sembrava per cucinare qualche cosa, la carne, lo so. La rustica. Non se ne trovano più. Quindi, poi stavo parlando anche con Tonino della GBC per quell'antenna nostra, ha detto guarda io ho possibilità, c'è un amico mio di Nuoro che c'ha, ti ricordi tu quelle antenne vecchie di Teleobiettivo Sardegna tipo quelle, dai, mi ha detto banda adesso non mi ricordo che banda era, no? Che c'hanno diversi elementi, dice accordandoti una di quelle lì modificandola H1 H2, mi pare mi ha detto H1, quelle vecchie per la banda VHF era. H1 H2 sono quelle, però sono belle, sono lungo un metro qualche cosa, 1,20 m. Rifacendo, diciamo, modificando quella lì, ma adesso mi sto puntando su un altro, ho visto roba, ho scaricato roba da internet, mi oggi è passato anche Marco Radiamattore, gli ho dato delle misure, così lui c'ha un programma, mi dà tutto quanto, mi ha detto è un peccato accorciarla, dice il boom accorciarlo, ha detto lascialo così e ci mettiamo il numero degli elementi, anziché farla 3 elementi, io ho una 3 elementi, anziché modificarla come volevo io, mi ha detto no, lascia stare, non tocca nulla, ne mettiamo più elementi, ne mettiamo almeno a farla 6 o 8 elementi, e mi dà un calcolo, c'ha un programma lui e mi dà tutto. Guarda che andava bene anche quelle antenne che si aveva del primo canale che si montavano una volta, quelle 10-12 elementi, solo che non ci sono più via dove siamo tutta mattina, ma alcuna è rimasta, e le tante si sono buttate, perché ce n'era una e gli avevano saccata e si sono buttata, quella già era bella, quella antenna lì a modificare, quindi, è quello che volevi fare tu. Vabbè, però attenti per il discorso dell'impedenza, per quelle sono tutte a 75 ohm, bisogna fargli un adattamento di impedenza, un balumo o qualcosa del genere. Mentre con questa qua probabilmente non c'è bisogno di fare niente, con questa che sto cercando di costruire io. Da Coso, da Grazi c'è, come si chiama, due elementi, ce l'hanno l'FM2 a due elementi, della Sigma, però ho detto due elementi non fosse nulla, ci vogliono almeno 4-5 elementi minimo. Capito. E vabbè, già si può sperimentare, no? Ma così una bisogna cercare le tettiche, se pieno di quelle antenne ancora. No, la zona di via Mendola ci sono qui. E vabbè, non andate verso di detto, non è un problema. Dimmi una cosa, stavo parlando anche con Claudio poco fa, di commutatori coassiali di antenna, pratico se ne hai fatto tu. No, non ho mai fatto di quelli. Alcuno. Non uso io di commutatore di antenna, nulla. Io uso due antenne, due apparecchi, sono fatto così. A me pare un commutatore che poi si imballa, come si era successo parecchie volte, quelli normali, riesce a uscire in gabbo, uso sempre io due antenne, ecco perché mi sono pensato prima quella che c'è sotto e poi la 5 ottavi, capito? Per non stare a... E poi c'ho la, in camera da letto c'ho la, il cavo pronto per la testata della Grand Prix, c'è quella Grand Prix che ho io, conta, e così posso usare tre baracchini volendo, capito? Per non stare a comunicare, uso un baracchino in camera da letto, un baracchino nella cameretta dove sono io e sono tranquillo. No, sto parlando con relè coassiali, cioè commutatori alimentati, cioè con un unico campo alimentare 4-5 antenne diverse, mi hai capito? Ah, no, non ho mai fatto di quelli. No, perché siccome c'è un unico motore montare, io ne ho già montate due, c'è un unico motore di antenne, però per non portare di nuovo un altro cavo eccetera eccetera mi sono rotto le scatole, voglio fare con questa commutazione coassiale, con l'unico cavo di alimentazione ti attacchi tutte le antenne, non ti ha rotto le scatole. Beh, quello sì, ma ci sono tante questi schemetti per fare questo tipo di antenne, ce ne sono parecchi. Io non so. E quel tipo là invece non si è più fatto sentire, quello amico tuo. Ah, che c'è esaurito, cosa? Bah, ha aggiunto la cavola. Prima dice una cosa, poi mi viene a dire quali regole su internet e cosa di più. Ma se vuoi soldi, fagliela, che sapevo che stai rompendo, ho detto. Gli altri 50 euro di voi, che la fai non ti costa niente. Ma poi la sei da fare, ascolta, fai come ti vuoi, fai come quella roba che c'è dentro Santa Maria. Che per la fissazione che ti sei messo in testa per guadagnare chissà che cosa, ce l'hai buttato lì e quando ce ne prende fuoco, perché ti è già capitato questa storia. Ma se la facendo la due dopo subito. Infatti boh, ma papilla di Berlusconi, di chi si caccia il pane rubollo, ma non so, non mi reputo pollo, non lo so. Poi è stato a proporsi lui, mica gli ho detto io, tu hai detto mi c'è qua, ha detto sì, te la faccio e basta. Gli ho chiesto, volevo una cosa semplice senza arrivare a quei livelli della cosa, in acciaio inox e cose del genere, che non me la futti a nuda che sono troppo pesanti, mi serve solo in ricezione, e poi era tutto disposto. Poi di colpo ho iniziato prima a 20, poi 30, poi 100, e si buh. Non penso che lui con l'antenna sarà all'8 tutti i giorni uno che la prenda. Una cosa è certa, se uno vuole soldi, la cosa la fa subito, se uno invece soldi non ne vuole, vuol dire che sta a dire prima la cosa, poi ne fa un'altra, vuol dire che i soldi non gli servono, il discorso è quello. Ma sì, dov'è? Lo so, infatti io non sono riuscito a capirla quella persona lì, pensavo fosse un po' più, non dico serio perché non lo conosco, non posso dire niente, però se uno si propone e dice sì te lo faccio io, poi si tira indietro, buh. Sì, c'è la malattia del tecnico, c'è, il discorso è quello. Se tu vai al tecnico e chiedi una cosa, prima ti dice sì, poi non è fatta male, qua non ho avuto tempo, qua là, eccetera, eccetera, capito? C'è la malattia dei tecnici. Laboratorio che con quelle che c'è in testa si dimentica di quello che deve fare, se uno vuole fare il studio il fa, il discorso è quello, l'altra la, te la costruisce e te la dà. Comunque penso che sia stato per dire come ti sei messo d'accordo il giorno prima. Sì, lo so, infatti, ma e poi il discorso non è tanto, magari se si spagge la voce, se lui ha intenzione di fare qualcosa del genere, per dire l'ha fatta a me, io dico, mica te l'ha fatta a me, ma l'ha fatta a lui, ti può fare anche quello. Cioè è tutto un discorso di passaparola, come tutti i lavori, invece sembra che non gliela futti nulla. Ah, giusto, per lui, questa cosa è fatta appena di mattinaccia. E aveva venuto una cinquantina, e detto, qua, come si chiama, te le vedi a un'aula, gli ho detto. Sì, ma cosa, una cosina, fusa, ma non è per te, fusa, non te ne può più nulla, e su, dimmi voi, dice sì, e allora ho detto, guarda, a te una cosa 30 euro, paga che ne 20 euro, cazzo io che ci sei guadagnato lo stesso, la posso ricomprare due, se ne comprano due. Ma sicuramente io non la voglio gratis, gli ho detto gratis, ma io anche 50 euro gli avrei dato, però dovrà essere un prodotto valido, non un pezzo di alluminio, se no mi metto che la faccio io, come sto cercando di farla. Io lo so, sono andato a venire roba mia, baracchini, non ci ballavo io per dire guadagnarsi, per dire 80 euro, 90 euro, dicevo voi un baracchino 50 euro, funziona, c'è questa modifica qui, io dicevo sì, pronto, lì non ho niente da dire, boh, non mi andava bene di chiami 50 euro, se poi la parecchia si vale più, cosa me ne frega? bastava avere i soldi in tasca, hai capito il discorso è quello lì. Allora questo non lo vuole capire. Quindi invece Baetto, ho visto che tutti gli appari che gli ho dato manco non li trovato indietro, quindi vuol dire che stava bene. No, insomma, va troppo di denaro, non ne ha potuto dare di denaro, le cose sono due. E senz'altro sono così. La testa sua, non ci posso fare niente. Figurati per avere uno strumentino, ci ho dovuto stare un mese e mezzo io appresso. Perché mi ascolta, c'è una bomba nuova, è saltato tu non ce l'hai. Io non faccio niente a casa perché sono agganciato al gas del bombolone. E tu vedi, più la bomba la mi dai col cazzo di strumento, ho detto. Allora, venuto me la lato, se no, uiaia, c'è tanto tempo. Fatto. Mi ha telefonato un befan chicchia, dice che non vedono i televisori in due dall'altra parte di una calata. Allora, nascosto bene se non lo vedono. No, è che quando ho fatto l'impianto di uno hanno toccato tutti i parti tu e si sono incasinati. E quindi hanno capito. Stava già a casa di cercare il cammato e gli ho detto che la tele l'ho fatta io e la roba sto facendo io gratis quando la pazia. No, non mi sono incazzato, allora gli ho detto, lui è pulito di 11 allora. E la cosa non ci posso fare nulla, anche nel secondo nuovo ho detto, è il partitore della parte dove sono attaccato io, la televisione la vedo benissimo. Se è detto, non vedo, non so proprio di video. Vabbè, molto niente, si è visto andare macchine. Ah, non mi ha toccato io quel partitore, cazzo, era calata la parte opposta. Allora, io ho sistemato un'antenna, ho impianto un'antenna a questa zona, a questa mano, questa voi io. Tu devi vedere cosa hanno combinato in questa casa, era una cosa mai vista. E io ci sono elettricisti professionisti, che era tutto pieno di giunzioni, di cose, c'era una perdita di segnali allucinante, ma che cazzo, l'hanno fatto neanche un mese prima l'impianto, tu devi vedere la schifezza che hanno fatto, hanno messo amplificatori allucinanti che non c'era bisogno di niente, poi ho detto questo non c'è bisogno neanche di amplificatore, c'è il segnale diretto, l'imbara c'è di fronte, se no c'è il segno, arriva pulito, non c'è ostacolo né niente. Siccome c'erano tante ispezioni e tante giunzioni, all'immediato hai molto amplificatore, però amplifichi anche il rumore e fai danno. Vabbè, quello già è vero. Ma la gente non si fa quando fa, io chiamo le persone elettricisti che poi sono mulattoni, non sono elettricisti, capito? Non so, toccano le cose e fanno danno, il discorso è quello lì. Sì, ma la cosa poi ridicola, a parte quello che hanno messo, di tutta la roba che hanno messo, le antenne che non erano adatte per quel discorso lì, perché quando devi fare lunghi tragitti ci vuole una bella direttiva a diversi elementi, hanno messo un'antenna a pannello che non serviva a niente, gli ho detto ma cosa aspetta di fare questo tipo di antenna? E poi non parliamo delle connessioni, cioè hanno usato gli attacchi, quelli, cioè presenti quei connettori da satellite per CaboSat. Senza neanche isolare niente, era già dopo un paio di settimane, siccome da animale c'è tutto l'ossido, erano già tutti quanti rugginosi, ossidati, ma ti pare sono modi di lavorare all'aria aperta, senza niente, con questo di l'altro va con il virus per proteggere la carta, era la carta già ossidata dopo un paio di settimane. Ma è capitato così, oggi ho fatto un impianto lì alla cimenteria dove c'erano quelle palazzine, ci ho messo 8 metri di palo, un'antenna HD, ho piazzato e una F4. E la pescatore senza di B, un bijou, bene, benissimo, addirittura a costa di Cecilia, quella HD c'era l'antenna, quella 25-30-20 che si usava per la TV francese, e tu figurati, l'ho smontata come se fosse il primo giorno che l'avevi comprata in negozio, c'è tutte le viti in acciaio, l'alluminio, non mi manca un pezzo. L'unica cosa, abbiamo fregato solo le griglie, i muratori. Evidentemente lo riservano per qualche antenna loro o per cucinare, cosa cazzo ne so. Ma parlurti danno i biliardi, cosa vuoi ti dica? E ce l'avevamo tanti anni fa, un ragazzino, c'avevamo ancora il televisore Seccam, era il francese, c'avevamo, l'antenna l'aveva messa mio padre, ma ero piccolino, quando c'era solo Rai 1 e Rai 2, il ragazzino ci avrà avuto 7-8 anni, l'aveva convinto questo amico suo a mettere l'antenna francese, vedevamo il canale TV France 1 dalla Corsica, ma c'aveva un'antenna, un palo altissimo e questa antenna qua aveva messo. Ma... io lo so, basta puntare in Piazza Castello e c'è il grattacielo, e come si pigliava? Io mi ricordo sempre di avere zitto. E faccio uno che stava con tipo di antenna, la vedeva tipo francese, forse qui a Sassari con l'amplificatore bianco della tua casa, quello 35 dB, ma con il barattino di, con un kilowatt c'entrava dentro lì. Non so, erano bei prodotti, ma adesso le antenne non valgono niente, cazzo, si usci da materiali scadenti, tutto fatto in economia. Quella antenna era una bella antenna, io ho ancora il televisore, figurati, la bianca e nero, e quelli a tubo, vecchissimo, proprio vecchio vecchio, c'aveva due canali e boh, e c'aveva il telecomando a filo, perché potevi commutare il primo e il secondo programma. Era proprio all'epoca, e poco costava, chi costava, la cosa che costava più di tutto era il televisore, perché tu quando compravi prendevi la tela, costavamo di soldi, e poi ti dovevi comprare la televisione con Seccam, con la predisposizione francese, perché c'è il coso in negativo, se ci metti l'altro televisore con la, come si chiama, con il sistema qua lo vedi in negativo, dovevi prendere la televisione, però il segnale era buono, arrivava discretamente. Dai. Io lo so, quindi radio che c'è. Abbaccia mi sabbovese, Muros. Ciao Antonino, ciao Roberto, salutoni, buonasera, sono qui c'è altra frequenza. Ok, mi metto il camion Pedro, poi ti dico del mercatino. Buonasera già, lo sai che in un primo momento non mi sembrava neanche tu, talmente sei arrivato forte di segnale di radio, pensavo fosse un'altra persona. Comunque ben sentito, compagnia mia di Antonello qua la strada, e poco fa c'era Claudio, non so se adesso rientra perché è andato a caricare le batterie. Comunque riprenditi il mic e avanti. Io ci ho parlato poco fa con Claudio, ho fatto anche pochi passaggi con Gianni, doppio lupo, e anche sotto a mangiare, e niente, allora io questa roba stasera diciamo ci ho fatto un salto, e c'è un'esposizione, un mercatino che si trova, che roba, cose di Natale, piante, e ci sono espositori che sono venuti da fuori, che fanno delle cose bellissime in legno, qualche quadro, diciamo roba di maglieria e così qualche siti del coro del nostro paese, quelle cose lì, non io sono andato a vedere se c'erano radio. Quindi non c'è niente tipo roba di antiquariato o cosa del genere, non c'è nulla. Non è gatti, ho usato per quello perché avevo detto che lo vedeva esposito da fuori, no, per vedere così per curiosare, ma sono tutte, diciamo, cosa è bello perché piace, ho fatto molte volte che ci sono questi fornitori che c'erano qualche cosa che mi possa interessare a me, ma diciamo ho comprato il calendario del 2013 al coro di Muros, che lo fa ogni anno, e si dice l'avevo già, c'ero sul pullman. E poi altro, però sono cose belline per la casa, no, però non più di tanto, roba che interessa a noi, roba che non si deve fare di radio, di robe varie, e poi io proprio radio, ho capito, queste sono le radio che mi interessano, un po' riprendi. Quindi non c'è niente ancora, se quella roba lì non c'è, quella del dove li trovi, io. Bisogna andare, una volta c'era una pedania da un capannone dove si vendeva baracchini, roba del genere, ma tutto parlo tanti anni fa. State radio antiche, roba così, era un brito perché non è. Lì vicino alle poste era una volta. Poi mi sembrava fallito. Poi io sono andato perché Roberto mi aveva sapevo manco che c'era questa roba, poi mi sono informato oggi e dei ragazzi che porto sullo scuola, così c'è il mercatino, ci sono anche degli espositori da fuori, non so perché non sono andato una volta, sono stato a Sigo a questo mercatino, c'erano degli espositori e ho comprato un baracchino, un SK ho comprato, 23 canali, 20 euro, sto parlando di alcuni anni fa, diciamo che gli ho riverniciato i pannelli, avevo la d'arte, funziona perfettamente, ogni tanto lo uso. C'erano anche di queste radio, diciamo che collezioni tu, però qui non c'era nulla, assolutamente niente di questa roba qui. Ma dopo però in Piazza d'Italia ne fanno questi mercati, confermi Roberto. Ma quella Piazza d'Italia diciamo ci sta un po' più andando più di gente perché è un salotto diciamo più raccolto, lo fanno tutte le ultime domeniche del mese di tutto l'anno, a parte chiudono il periodo di luglio e di agosto, chiudono per il resto dell'anno c'è sempre, mentre a Porto Torres lo fanno leggermente in versione ridotta nella passeggiata di lì di fronte al porto ed è la terza domenica del mese. Cosa c'è quindi tutto, no? Anche radio? Guarda, può capitare, qualche volta è capitata di trovare anche qualche radio, puoi trovare un po' di tutto, là io ho acquistato di tutto, diciamo, dai fumetti, arrivare all'apparecchio telefonico, qualche apparecchio radio, qualche, ti posso dire, che cosa mi viene in mente, dipende da cosa ti piace, orologi, non ne parliamo, cartoline vecchie, quadri, cose che, un po' di tutto di roba d'epoca, diciamo, dagli anni 70 in giù puoi trovare di tutto, puoi trovare, non so, oggettistica, un sacco di cose, io non so cosa ti appassioni oltre alle radio, però in generale trovi tu, certo non è il mercatino delle Pucci di Londra o di Parigi, ma qualcosa si trova. Ok, diciamo, le poche cose mi appassionano, io più sono legato a queste cose, vabbè, però ci sono anche cose interessanti che possono interessare anche a mia moglie per la casa. Io l'unica cosa, adesso voi vi mettete a ridere, ma non sai cosa sto cercando, Robert, adesso non so se ti ricordi, di quei calendarietti all'epoca che davano al barbiere profumati, mi è salito questo con la testa l'altro giorno, parlando con Babbo, che ci ha detto se in qualche mercatino ce n'era qualche non ce n'era. Sì, che li trovi, a voi, a quelli li vado tantissimo, ma quelle, diciamo, non è una cosa rarissima, ma già li trovi quelle cose lì, quelle oggettistiche, quelle anche immagini prima, quelle punti da raccogliere che ti davano nelle cose, perché ci sono collezionisti di tutti, dalle figurine trovi, sino a cosa ti posso dire, francobolli, qualunque genere, anche oggettistica, piccoli ventilatori per dire degli anni 50, interruttori quelli in ceramica, porta lampada, c'è un po' di tutto. Io ho acquistato un po' di tutti i generi perché quando trovi mai un oggettino carino, l'altro giorno te l'ho detto, sono andato, c'era un fanale di un'autoambulanza militare della guerra, era ributtata che non c'entrava niente a che vedere con quel coso lì, l'ha data a 3 lire e me la sono portata via, perché può sempre capitare quando fai qualche restauro, un bel fanalino tutto in metallo con la croce dietro, un fanale posteriore di un'ambulanza della guerra, e me l'ha data a 5 euro, molte volte trovi occasioni così, ti può capitare altre cose. Cioè, avevo preso una volta un mixer, però quello era diciamo il mercatino più bello che ho visto sino adesso, almeno che lo facevano una volta all'anno, poi non l'hanno più fatto perché non hanno lo spazio dove metterlo, e lo facevano dentro questo capannone, poi dice il comune si è dovuto trasferire perché si allagava con l'acqua e si è trasferito dentro questo capannone qua, l'hanno tramezzato, però quello era veramente bello, e lì c'era un sacco di roba di elettronica, ma dalle radio, amplificatori, di tutto, ma roba vecchia, radio militari, cosa ti posso dire, di tutto c'era, quello sì che era una bella mostra. Infatti alcuni di questi che ti ho detto di Silvio erano venuti proprio da Olmedo, proprio da Olmedo, però questo qui l'avevo comprato da un tipo che non c'entrava nulla con loro, un baracchino, ho sentito, non ho detto neanche 30, poi ho invitato anche a Mercedes, facendo il parecchio le salsicce, c'è un nuovo fatto, no? Antonio li prendi, c'è qua che questo mercatino delle Pucci che c'è roba di elettrico, elettronica, vero Antonello che parla da morte, e stavamo dicendo Antonello che c'era questo mercatino, c'aveva addirittura un provo a farlo, Roberto. Quello di Sassari, il mercatino delle Pucci di Sassari, sta parlando? Mi sembra proprio di Sassari, sì. Ma io ci sono andato diverse volte, ne ho comprato di roba lì, qualcosina di carino, c'è un po' di tutto, anche c'è un po' di mondetta, perché il 90% sono cose proprio che non so come abbiano il coraggio pure di andare a farlo lavorare per venderlo, perché c'è gente, dritto lo paga in contanti, per dire tu c'hai una radio vecchia, un frigorifero, un pensile, un orologio, qualunque genere di cosa, ti dice quanto ne vuoi cavare, ti dai i soldi e te li ritira, ti paga immediatamente, al contrario di quell'altro portobello che lui gli devi lasciare la merce, per dire dici 100 euro e lui la mette sempre nel 30% di questi 100 euro, se non la vende entro 15 giorni lo riduce del 50%, però lui sempre il 30% si prende, questa invece te la paga in contanti. Infatti no, qualche volta che a portobello sono delle occasioni, però ognuno vede dentro quello che hanno fatto adesso, però diciamo che tutta roba, alcune cose sì anche li puoi trovare in qualche occasione, però proprio ce l'ho andato a vedere quando si sono bruciati i computer per impiantarne un altro, mi ne manca a Samedale, non dentro computer. Già lo so, c'è poi un po' di mondo. No, ma qualcosa di carino, io già l'ho preso anche lì, cose che mi sono state utili. Ho preso un bel microfono, un microfono da base, di quelli, vabbè, voi adattato, non so se li conosci, quelli che usano tipo i supermercati, grande, con la molla, bello, con il coso, della... non mi ricordo che marca è, ma quello costa anche un sacco di soldi, ma l'ha venduto una fesseria, infatti me lo sono preso, ho detto questo l'ha adatto a qualche radio. Ok, ma di quelli che cercano con i flessibili della roccia? Tipo quello, molto simile a quello, però c'ha la capsula come l'MC60, è preciso l'MC60, la testa diciamo del microfono, c'ha una base bella grande e il coso è molto lungo, ma sto dicendo l'ho preso al volo, mi appena l'ho visto, siccome lo conosco quel microfono, aspetta che marchetto, lo dico subito. C'ha una base enorme, bella Paso, è un microfono che non paghi meno di 150 euro nuovo quello lì. Qui non ne ho uno di quelli. Era la Paso che c'ha la base grande, bella grande, con questa fare tipo la doccia lungo, che sarà lungo almeno 40 cm, e qui c'è la testa similissima all'MC60 della Kenwood. C'è l'olio, però diciamo che era di un amplificatore, capito? C'è l'olio, sì, si assomiglia anche all'MC60, hai capito? Sì, sono delle occasioni uff, però ne ho microfoni adesso già passano 50, no? Hai capito? Non proprio sono un sacco di roba, che sono mi mantengo questa, quella che me la tocca, tipo non le ho in nulla, hai capito? Perché poi altrimenti le robe non so come metterla la roba, adesso mi devo fare un come si chiama, qui lo spazio c'è, faccio un bel coso lineare, un coso proprio come c'era nella Diamantoni per metterli in ordine bene, le cose, e poi basta, sì, se no il nome è seguente il coso delle macchinette di vendita. Una cosa, tornando a noi Gianni, tu volevi un come si chiama, un accordatore d'antenna piccolino o un misuratore di Ross? Io sto cercando, siccome ce l'avevo, quella roba lì è stata buttata assieme alla radio, era un Ross metro, ci si attaccava anche un'antenna, l'avevo comprato da Costantino Fara all'epoca, perché mi viene bene quello lì a mettere, dove c'è il cavo, a metterlo, non come quello che so del piccolino là del TG, hai capito? Quello ce l'avevo io già un come si chiama solo il coso del rosmetro già, c'è la manopolina, c'è un come si chiama un interruttorino, quello che c'avevo io era così, sto cercando una roba del genere. Break. Sì, è stato aperto un attimo già. No, ti volevo dire, ma tu ti serve per commutare l'antenna, perché allora io c'ho quello mio personale, diciamo, la stazione fa da accordatore e da commutatore di antenna in contemporanea, è da rosmetro e wattmetro, quello il grosso della ZG, quello grande che faccio con TM1000. Però forse riesco a buscarti in un altro, però non fa da accordatore, fa soltanto da misuratore di Ross. Voglio solo un rosmetro io, solo un rosmetro Robert, se c'è un rosmetro, praticamente se mi puoi, facciamo entrare in break subito, si mette in orizzontale questa roba, lo vedi? Ah, c'ha l'ingresso da una parte e l'uscita dall'altra, non tutti e due dalla stessa parte. Come si chiama in orizzontale, tu capi in verticale, cioè in verticale, attacchi antenna e poi attacchi l'altro capo al trasmettitore, però tu lo vedi in verticale, lo vedi, non in orizzontale, sono quello che vuoi, in verticale. Un misurato verticale. Sì, già, ce l'avevo io, è stato buttato via assieme al K2, quando abbiamo traslocato. E mi piaceva, mi stavo pensando, trovavo proprio uno di quelli. L'ho visto da qualche parte, buonasera a tutti, comunque l'ho visto da qualche parte, ma non mi ricordo se era GBC oppure da come si chiama, da Melchiori, da Fusaro, non lo so, forse da Fusaro o da GBC più che Melchiori, o uno o l'altro, non me l'hanno fatto vedere, uno c'aveva questo antennino con misuratore di campo. E io ci avevo fatto un antennino, mi ricordo. Era proprio per misurare il campo, ma stiamo parlando di un sacco di anni fa, di più di 30 anni fa questa roba, è il primo rosmetro che ho avuto, era perché ero affascinato, di aver buttato via, esatto, sicuramente, perché non sono finita la bavo, cercato, niente, c'è tutto tranne quelle cose, riprendilo bene. Ma io questi con antenni non ne ho visto uno, però non riesco a capire la logica del funzionamento, come funzionano, perché Praticamente ti misura le stazionali senza fili, tu ti allontani e premi la portata e ti misura le stazionali dell'antenna. Ma l'antenna di macchina sta parlando? E allora, l'antenna della macchina, io lo misuravo in macchina. Ah no, io pensavo l'antenna, per dire che qua sono in stazione, adesso schiaccio la portante e funzionavo direttamente. No, dovevo essere vicino all'antenna questo. No, non esattamente, ti puoi mettere lontano anche dall'antenna, non tanto lontano, però ti puoi mettere anche, diciamo, un po' di metri, dai, 5-6 metri, ti puoi mettere dall'antenna, ti misura il coso, le stazionali, così, capito, senza mettere i fili. No, vabbè, no, l'ho solo visto questo, ma non l'ho mai visto in diretta, diciamo, dai. Ok, però Gianni, capri due, volevo dire, tu stai cercando un apparato che ti permetta di vedere solo le 600 stazionarie o che ti permetta anche di eliminarle, cioè di abbassarle, accordando l'antenna col barattino? Così un Rosbeth normalissimo, una cosa normalissima, c'è solo un, come si chiama, una scala solida. In poche parole, quando le colleghi l'antenna, l'antenna poi lo colleghi al trasmettitore, è normalissimo, solo che invece di essere come quelli che abbiamo in orizzontale, lui in verticale, capito? C'è solo tu, per esempio, schiacci la portante, lo metti sul 7, poi schiacci l'altro e ti dà, come si chiama, il rapporto di onda stazionale. E questo antennino era piccolino, telescopico, a due, presente hai un walkie-talkie, gli ultimi due stati dell'antenna, c'aveva un antennino che si abitava lì. Ho capito, anche se non l'ho mai visto funzionare, ho capito quello che sta dicendo. Dai. Ok, riprendi da Gianni doppio rompo. No, io non me lo ricordo il telescopico, già mi ricordo che aveva un cerchietto sopra ed era un filamento in acciaio, dai, uno stile in acciaio con un cerchietto sopra. Ma questo era piccolino, già sarà stato un 20 centimetri, proprio un tipo, quello che diceva che tu, che era la telescopica, cioè 20 centimetri sarà stato, e si abitava lì, si abitava. Eh sì, era così, era anche quello che dico io, era così, quello che avevo io. C'era un cerchietto finale, nella punta dell'antenna c'era un cerchietto. Niente, no, già li ho conosciuti, li ho anche usati e funzionano. Io l'ho fatto al quadrato, mi ricordo, con quello lì e ha funzionato tranquillamente. Niente, che dirvi, state parlando di apparecchi di vecchia era. Sì, soprattutto di radio di casa, di ricevitori casalinghi, io, diciamo, mi piacciono, però non posso fidarmi a casa. Hai capito? Me ne avevo un'altra per Roberto e mi portava il malumore già. L'avevo comprata lo stesso, come si chiama, perché mamma ce l'aveva precisa, poi anche quella era andata a finire male. E l'ho vista in questo coso, gli dovevo aver comprato il baracchino OSK, e l'avevo comprato, ogni volta che la festevo in casa mi veniva il malumore e l'ho fatta fuori. Ogni giorno ci sono dei impegni, ho visto belli in un catalogo, stavo guardando in internet, di quelli vecchi, robe, ti ricordi quelli che avevano i giradischi anche dentro? Sì, sì, senza detto che ne ho tanti, io un giorno se capita ti faccio vedere una cosa, mi faccio la vista a Gianni, te ricordi già quello che c'ho a casa io? Un televisore. Televisore, anche il televisore, quello c'ha tutto, allora c'ha, e un mobile enorme, sarà 1,20 m di, poi c'è neanche di più, facciamo 1,50 m di larghezza, di altezza sarà almeno un altro 1,20 m, 1,30 m, perché mi arriva alle spalle, si apre, Gianni Capro 2, mi riferisco a te, là dentro c'è un giradischi con a fianco un registratore a cavo d'acciaio, che sono delle cose molto molto rare, con un affare microfonico, con il suo microfono di comando, dopodiché sotto, frontalmente c'è un televisore, questo è stato costruito nel 55 proprio alle albori della TV. A fianco al televisore c'è un altro pannello dove c'è le stazioni radio, le bande radio, onde corte, onde lunghe, eccetera, eccetera, più un altro pannello con la modulazione di frequenza. Tutto questo è stato commutato da un interruttore a chiave con delle spie, che girava questo interruttore a chiave e ti accendevano le spie e per dire la spia rossa ti accendeva il televisore, la spia gialla ti faceva quello lì, eccetera eccetera, e poi sopra c'è una specie di mix di commutazione per l'audio, e poi sotto nella parte bassa ci sono, nella parte inferiore, gli altoparlanti. Pesano meno di 80 a 100 kg tutto questo blocco, per portarlo su ci abbiamo messo 4 persone eravamo. Dopodiché all'interno di questa roba c'è tutto fotografato, tutta la parte elettronica è stata fotografata con foto grandi, formato grande, con indicazione di tutte le valvole, tutti i valori delle valvole, eccetera eccetera. L'hanno costruito a Genova per un giudice nel 1955 ed è una cosa molto molto particolare. Vabbè, ma è funzionante ancora? Sì che funziona, l'unica cosa è il TV già, lo vedi bianco perché, come si chiama, il tubo vuole ricaricato, si può ricaricare ma non me ne ha funzionato, è la bellezza del mobile, perché se lo fai funzionare magari crei dei problemi, non lo accendo neanche adesso perché non mi interessa, perché non vorrei fare danno su qualche condensatore. Vai a Portobello che ci sono due belle radio a te che ti interessano, quelle in legno, tutte in legno, mi pare 150 euro le stanno dando, sono di quelle proprio tutte in legno, lavorate, cose di quelle antiche, non so se mi spiego, che sono tutte in legno e davanti c'hanno le gratte. Sì, già le ho viste qualcosa, diciamo sono per certi versi, anche se qualcuna è abbastanza buona, sono prezzi un po' altini, diciamo già si possono trovare anche meglio come prezzi. Il discorso è questo, naturalmente bisogna conoscere le radio, quelle non sono così vecchie Gianni, sono radio degli anni 60, diciamo da dopoguerra, da 55 in poi, perché le vecchie radio, parliamo le vecchie vecchie intendo, la radio qualità è nata nel 24, le trasmissioni radio, le prime trasmissioni radio effettive, diciamo commerciali, parliamo dal 27 al 28, le prime sono quelle che si chiamano a chiesetta, che rimangono proprio tipo l'ingresso di una chiesa, i portoni grandi, tipo le abbazie che sono fatte a punta, quelle lì sono le prime radio, non avevano sintonia né niente, c'era un'unica gamma d'onda e basta, e prendevi solo quella radio lì, poi giunta la sintonia con i condensatori variabili e c'erano delle valvole che sono delle bottiglie da quanto sono grandi, le prime radio, proprio le vecchie vecchie. Poi dopodiché sono venute le radio, parliamo dagli anni 60, quelle radio con i coso, che abbiamo le valvole Philips, quelle piccoline, che di quelle le trovi quanto ne vuoi. E ringrazio per l'ennesima volta Gianni KP2, me ne ha regalato una di quelle degli anni 60, diciamo fine anni 60, me ne ha dato una di quelle da cucina, chiamiamola, quella in plastica, in bacchelite, che ne ho qualche donata. Diciamo, quelle è un po' più difficile trovarle, sinceramente, rispetto a quelle in legno. E comunque io ti stavo ascoltando poco fa che stai facendo l'esempio del pagamento tra Portobello e cose, però io comprerei 100.000 volte di più a Portobello che a quello lì, quello lì vende Mombetta, proprio è lugubre quel locale, non fa manco entrarci, tutta roba ghiacciata nel mondezzaio, nei turbini della porta. Sì, quello è vero Gianni, per quello che ho detto, il 90% c'è Mondetta, però c'è da dire una cosa, già, io sono andato l'altro giorno, era un po' che non ci andavo, ho trovato delle cose veramente interessanti, magari potrebbero anche interessare a te, a me, diciamo, ce li ho già, non mi interessano, però c'era degli impianti hi-fi, per dire c'era un sintonizzatore digitale della CAI, bello, sintonizzatore con la preindicazione della frequenza digitale a PLL, controllata al quarto, un bellissimo apparato perché lo conoscevo, lo trovavo a 20 euro, poi c'era della Outline, un sistema di riduzione del rumore che all'epoca costava un po' di soldi, lo stesso 20 euro. Poi ci sono impianti compatti della Philips, della Kenwood, della Sony, qualcosa trovi interessante, e poi ci sono quegli stock, grandi stock che lui prende in blocco, c'era una serie di quei Walkman, quelli della Majestic, tipo limitazione del Sony Walkman, nuovi di scatola, poi autoradio vecchie degli anni 80, cose così, diciamo, quelli che adesso sono pezzi, diciamo, non dico da museo, ma quasi, ancora è scatola, poi c'è un bel di Mondetta, però se uno trova l'oggetto che gli interessa, per dire l'altro giorno sono andato e c'erano quelle DJ console da DJ, c'è la mia uguale mio nipote della Hercules, che metti le schede oppure ti collega al computer e ti puoi mettere anche a mixare, e diciamo anziché utilizzare il piatto utilizzi le cose, le MP3 eccetera eccetera. Poi c'è come tutto, tanta di quella Mondetta che la metà è troppa. Sì, poi roba sporca, ma io quando vedo roba sporca così mi dà... Allora, mi stavo fermando, io non so se hai visto all'entrata sulla destra che c'è una specie di separito. E c'era questo qua che stava dando roba interessante per me. fucile subacqueo dalla Homer, sta guardando la butta, siccome ho visto che era un tipo che aveva la stazza mia. E mi stavo andando a guardare se mi interessava, capito la roba. Fatto sta che mi ha visto guardando e mi ha detto cosa metto, no no, questa qui è zona riservata, si deve allontanare, questo e quell'altro, cosa va a fare? Ormai sono andato così malamente perché mi stava interessando quella roba, se la mette la prendo subito, capito? Se era da un pentacesimo c'era tutto, c'era la sacca grande, c'aveva fiocine, c'aveva fucile, c'aveva pallone, tutto quanto, la butta, insomma era completa come attrezzatura. E poi stavo guardando una carrucola di quelle elettriche, quelle che tirano sulla roba, e non so quanto la stessero dando, però funzionante, perché l'ha trovata avanti a me funzionando. Sì, infatti guarda, io ho trovato un medistence, c'era questa estate, diciamo, verso quando era, adesso mi ricordo se eravamo verso giugno, adesso mi ricordo, e l'ho visto, 25 euro stavano andando, ma non ne faccio niente, e poi ho detto, ma aspetta, di nuovo ho detto, ci vado, lo vedo almeno il poste, e gli ho detto a mio fratello, no, non li prendere niente, se no, siccome mio nipote è fissato con la pesca, solo che è un po' svidiato, mio fratello non voleva. E volevo andare a fargli un regalo, sono andato e ce l'hanno subito venduto, però era un bel medistem, 25 euro, non so se diciamo funzionava, se perdeva, quello non l'ho provato, non avuto. Però esteticamente non era male, almeno a livello estetico, naturalmente bisogna vedere se il pistoncino teneva l'aria, eccetera, eccetera, quello non lo so, però 25 euro, se era funzionante, era un buon prezzo. Sì, infatti. No, questo qui c'aveva proprio un arbaletto, quindi c'aveva la muta di quel colore militare, c'era della mimetica, così, fatta così, poi sempre della Homer, una nuova marca, ma conosciuta da chi pesca. Comunque, da sue cose lì sta tutto a beccare il tipo quando sta passando la roba, magari a lui non interessa della roba nuova. Io gli ho provato a portare la macchina fotografica e la telecamera, che io non uso più ma che sono buonissime, sono proprio nuove. La macchina fotografica c'è la borsa, teleobiettivo 70-210, grandangolo, obiettivo a 50, filtri, insomma tutta completa. Ed è della Mamiya, è una marca praticamente che usano i fotografi a livello di quelli che fanno fotografie matrimoniali, per intenderci. Poi gli ho portato la telecamera della Panasonic e tutto quanto, mi ha detto che non la trovava nel computer, ho detto guarda che questa qui è roba, cioè che non producono più, però che è buona, capito? Sono cose professionali, almeno la macchina fotografica è professionale, la telecamera fa dei bei filmati, anche se non è professionale, poi fa dei bei filmati. Non so quanto darle, non so valutargliela, questo e quell'altro, e non me la abbigliare. E vabbè, quello lì purtroppo se non so le quotazioni, però naturalmente non sono cose da regalare, quelle cose lì. Però già le conosco, sia la Homer e la Vuglia, un marchio che adesso sta andando a coso, sta andando bene, perché tra degli ultimi prodotti anche qualità prezzo è buona. Prima tutti si fissavano con la Mares, però la Homer li sta togliendo un sacco di mercato. La mia, già la conosco anche la macchina fotografica, pur non essendo grande appassionato. L'altro giorno c'era una bella macchina, una Yashica, mi sembra, con un obiettivo da, non so se era un 150 o 180, adesso non ricordo quanto era, dentro una valigetta, a chi poteva interessare poteva essere anche un affare, perché la macchina non era in cattive condizioni, c'era il flash grande e due obiettivi c'aveva, forse era un 200, adesso non mi ricordo, però è una macchina diciamo di vecchia generazione che può sempre andare bene. Sì, diciamo che li vendono ancora le rulline eccetera eccetera, però vabbè, diciamoci chiaro, adesso con le macchine fotografiche digitali ti puoi scegliere la fotografia che vuoi, ti sviluppi quella che vuoi, capito? È diverso, prima invece dovevi sviluppare le rulline, anche quelle che facevano schifo te le dovevi prendere per forza. E niente, la comunità è quella, capito? Oramai il digitale ha sopraffatto tutto il resto, però con le macchine lì ti assicuro che facevo delle fotografie, cioè certe fotografie appese nella cameretta dei ragazzi, di Manuela, di Marco, di quando era piccolo, eccetera, eccetera, e sono delle fotografie che ho fatto anche con lo zoom dal 70-210, che ho fatto la mia moglie, con la neve, con lo sfondo della neve, e l'ho fatto. fatta la fotografia dalla chiesa che c'è, non dalla Bonaria, da quella che c'è più giù, da quella chiesa lì, e lei si è messa giù proprio dove c'era la strada, si vedeva lo sfondo del paese con la, innervato, ed è in primo piano, una favola. Ma se la digitale del futuro ti puoi manipolare e fare tutto quello che vuoi, anche se non è la stessa soddisfazione di fare un'esposizione manuale. Ok, stiamo monopolizzando, avanti Gianni, l'amico da Muros, avanti. Ok, lo sto ascoltando, cioè è interessante il discorso, no? Vabbè, bella tra botto, quanto mano, comprò, c'aveva un bel registratore a bobine assipite della Deac. Mi sono pentito la volta perché non l'ho comprato, quando ancora porto bene, lo sai dove era, vicino alla piazzetta, c'era questo registratore a bobine, a bobine enormi, che sembrava un proiettore, fenomenale, non l'ho comprato, ho fatto malissimo, si pizze aveva, e già ne ha qualche cosa di interessante, però bisogna trovare, diciamo, il momento giusto a trovare queste cose, perché molte volte ci passa anche per curiosità ed è roba al 90% da buttare. Gianni, io quando ho prodotto la sala, ho versato quella nera perché mia moglie non piaceva più, perché dice che tirava la polvere, eccetera, eccetera, ci abbiamo preso quella in noce. Quando ho portato la sala, ha durato una settimana, se l'ho subito venduta. Sì, avanti, chi sta chiamando? E adesso qui mi stia arrivando un Santiago di 7 più, non ti copiamo perché sto modulando con Sassari, sono in compagnia di Roberto Quadrato, di Gianni Doppio Rue, c'è anche Alessio Pompolio che è in quei vecchi, se poi hai capito, perché adesso ho copiato, già, però quando parlano loro non si sentivo, riprendi. No, va benissimo più, va benissimo, e che quando parlano loro ti coprono, perché Roberto ce l'ha un tiro di schioppo. Comunque buonasera Pino, Robe, ascolti Budusos. Sì che l'ascolto. Chi è Pinocetto? Via. Non so se mi ascolta lui. Mi ascolti Pinocetto? Copiato Roberto Pino. E ancora ti vedo il telefono per me. Pino c'è, mi ascolti. Ho detto Roberto ce l'ho, ha un tiro di schioppo, ce l'ho, e quindi quando parla ti copriva, quindi non riuscivo, poi ha fatto bianco e ho sentito il risposto. Ok Pino, salutami a Giovanni se vai qua a Canada. Io ci rimasto un più lungo, Roberto, se mi ha squillato il telefono, avanti Gianni. Pia, ciao Pino, c'è, stasera già ti ascolto, Pio, ma già ti sento, va? Buonasera. Quanto più lungo, Pino? Si è spostato in canali alti, perché c'è anche Giovanni lì, però io non mi trattengo molto stasera, che sono un po' stanco, sono stanco, cioè mi sento anche un po' male, mi sento, perché ho preso freddo ieri, è così. Roberto è al telefono, allora il discorso, qualche cosa già si trova, molte volte è bella, io ho fatto male a pigliare con il registratore che mi sono pentito, è bellissima bobina. Quindi anche la cosa si trova qualche cosa, tacchini, roba così, portatili, qualche volta già li ho visti. Ce n'era uno da poco, ma l'hanno già venduto, mi ha detto. Una stazione base. E c'era anche un portatile, già non ne ho preso, hai capito? Non posso stare sempre, diciamo. Già mi piace, ho preso poco anche il posto, quello che, capito, già ho visto, c'era un portatile, ce n'è anche uno preciso di CB quelli, la precisione è quello che c'ho io per fare la copia, ma ormai mi basta, mettendo quello e basta, no? Adesso la stazione la lascio com'è tutta, e se no in genere ce li ho quasi tutti i baracchini dell'epoca, mi può mancare qualche cosa, ma basta. Cioè, mi piacciono tantissimo, però poi ci vuole posto, vogliono anche manutenzionarci. La pagava, vabbè. Poi vendono molta roba sfasciata, capito? Non si sa se funziona, è quello. Perché l'altra volta ce l'aveva due apparati, se fossi stato sicuro che funzionavano magari uno me l'avrei preso, però non sa se funziona, non li puoi provare, lì è un casino. Poi io, diciamo, sono andato l'altra volta che c'era il fulmine, siccome c'era un computer già, che mi aveva detto che costava 80 euro, e quanto siamo adesso? passato, come detto, ce n'era anche la metà, poi ce n'erano altri lo stesso, o ci mancava questa scheda, non so come, o così, e ho detto, lasciamo perdere, sono andato a Città Mercato e ho comprato quello che è arrivato oggi, che è in riparazione, che anche quello lì, dal giorno che l'ha portato, secondo me è difettoso, e mi ha detto perché si deve aggiornare qui e poi si era bloccato del tutto, 20 giorni fuori era lì circa, ma dice che hanno fatto questo lavoro, Claudio lo sta usando, dice che va bene, io mi ho comprato il portatile mio, quando devo fare cose, il mio personale adesso è così, ognuno risponde delle cose sue. E poi sei più autonomo, devi stare presso il computer, l'altro che dice no, sto facendo roba, lo so perché queste storie anche a casa sono successe, quindi so già com'è, anzi da voi siete in due, a casa lo usavamo in tre, un po' tutti lo volevano, abbiamo dovuto fare i tubi per non bisticciare, infatti lungo. No, in uno funzionava, uno l'ha colpito poco, aveva solo rotto le porte USB, infatti l'altro giorno c'era questo che sta lavorando all'impresa, me lo vendi, ho detto se se lo prende glielo regalo, glielo regalato, gli ho regalato anche le tastiere, il muro, glielo regalo, lo schermo no, perché lo schermo di quelli piatti che mi ha stato, perché quello che ho comprato mi hanno dato solo la tastiera e il muro, lo schermo non c'era. Quando lo schermo si deve arrangiare, però glielo sto regalando, glielo ho anche fatto vedere, funzionava già, però diciamo mi aveva bruciato lì le porte USB e la cosa dove connette a internet. E niente, non io ho messo qui, c'è il portatile che funziona, senza filo, hai capito? Mi ha dettato il codice, l'audio funziona senza filo, non funziona, la cosa devo usare, non c'è bisogno di attaccare niente, come non so, con tastiere, con muro, c'è tutto lui. Ripeto, però poco, però lo devo avere perché lì mi immagazzino le cose. Gianni, prego, Gianni, doppio Roma. Avanti, Sandro, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, sarà difficile. Ok. Gianni Capri 2, niente, sono entrato giusto per fare una... Cappala. Mi ascolti? Cappa, ti ascolto forte e chiaro, Sandro. Mi sentite a me? Io Luca, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Luca, mi sentite? In compagnia di Capri 2 e... di Sandro e poi chi era quel senso non mi ricordo, c'era Roberto, c'era anche Pompugno, c'era che poi abbiamo rilasciato e non ha risposto Roberto Quadrato. Aspetta un attimino Gianni Capri 2, dimmi Sandro. Cazzo, addirittura mi ascolti? Sì che ti ascolto, vieni avanti. Va bene, dai, ok, no, era una prova che volevo fare, ero già da tempo che non provavo, tutto lì. Ok, la riprendi Gianni, non più. Ma ti sei meravigliato perché sei arrivato a muro. Ho già, sto scendendo col filo da prendere. Ah, perché è andato, non va? Sì, no, già va. Soltanto che adesso ero da tempo che non lo provavo, capito? Ho detto va, fammi più sentire un po', dai. Riprendi e torno alla normalità, così vedi un po' se c'è qualche... se cambia, diciamo. Agatto. E, diciamo che non stavo guardando lo Twitter, però già me ne accorgo lo stesso. Che cambia, perché anche dalla modulazione te la pompai più. Attenzione Luca, ascolta quel catalogo della Inter che ce l'hai? Come scusa? Il catalogo della Inter che tu ce l'hai? Oh no, non ne ho. Vabbè, è beautiful. Paolo idraulico. E il fotti a giocare il pane. Attimo, aspetta. Avanti, Capri 2, cambio. Ok, ciao Luca, buonasera, no, mi stufa ce l'ho nel sottoscala, lì ce l'hai, è capito la stufa e è capito in nuda, no, non mi devo, diciamo, scendere giù o entrarmene a letto, se no mi dà che sempre sono messo male, non ne ho, però mi sento i sintomi dell'influenza, mi sento. Ok, per il momento vi saluto, anzi lo lascio a Cesco e vi ascolto. Ciao Luca, ciao Sandro, ciao Roberto, ciao Pomponi, se ti ascolto, io la 5 che qui c'è preso davvero, riprendi. E l'abbiamo capito, ti vuoi scaldare, va. No, di solito c'è una stufa, però c'è una stufa imboscata nel sottoscala che, come abbiamo comprato la legna, già adesso bisogna, c'è una stufa elettrica. Risparmia. No, qui c'è freddo, c'è altro che. Ok, mi rilascio, vai. Se crepi di freddo, vado ad attaccare la stufa. Va bene, già, buona Rick, si ascolta, avanti, Sandro. Ok, ciao Gianni Capridua, dai, alle prossimine vai a riscaldarti, dai. Ok, dai Gianni, Tokyo Roma, adesso sono in antenna, dai, com'è? Va. Ok, vedi un attimino, prova radio, prova. Poi c'è 9.5, è un altro passaggio, però non ti ho guardato, infatti non so quando lo smetto. Ok, aspetta un attimino, dammi 2 secondi che vado a commutare. Oh? L'altro giorno stavo raccontando a un amico della forza di Beautiful. L'altro giorno stavo raccontando a un amico la volta di Beautiful a Valghero. Si è pisciato, era disabile, ha toccato qua, non ci sono, non c'ero, ma mi posso immaginare la scena. È un pazzo, sì. Sono a pensarci, guarda, poi. Sono climati, insomma, sono tutti. Un po' di birra, senza mangiare, questo mal di testa, guarda, mi ha crepato. Un po' mi sono ripreso, ma poco. Sì, un po' ganta. Oh, un bel. Ah, ecco. Non sai che ti guarda che c'è effetto quando bevi un bel e ti crepi a birra. Gianni. Chi sa, prova. Ok. Aspetta un attimino, poi devo andare sotto al cordatore. Sei in mezzo con picchi di 7. Sei in mezzo con picchi di 7. E ok, va bene. Beh, c'è prima la 9.5, ma siamo una modulazione buona, lo stesso. Ehi, capo, quello ti volevo dire. La modulazione com'è? Uguale all'altra. La modulazione è precisa. Ok, dai, va bene, considera che ho i due bracci rivolti, uno è verso, diciamo, uno verso Santa Teresa e uno è rivolto alla Sinara, quindi neanche rivolto verso Sassari, eh? Sì, ma va bene, non c'è problema. Questa pure fa. Caffa. No, già va bene, sa. Bene. Me l'hai attaccata al palo dell'antenna. Aspetta un attimino che commuto, passo in antenna. No, me ha avuto rovesciata o verticale, orizzontale cioè. Ok. Ci siamo? Yeah. Ok, dai. C'è la differenza, sì. Te l'ho detto. Vuol dire che c'è 9.5 sì adesso. Ehi, capola, vabbè. Adesso ero già da un po' che non lo provavo, ho detto fammi provare ogni tanto, vai. Vabbè che diciamo che è un po' buttato su e adesso questo il vento non lo so come l'abbi ridotto, perché mi sono accorto adesso accordando mi ha dato un po' di mattana. No, ma tu fai l'esempio, è come se tu avessi un lineare da 2 200 watt, uscire liscio con la cosa e poi attaccare il lineare a 200 watt e esci con l'antenna, come stai dicendo, con l'antenna, diciamo, verticale. Chiaro, parola, sì, vabbè, va bene, dai, ma diciamo che già va, diciamo, piccoli esperimenti, piccole cosette, dai. Da un po' se c'è Roberto Quadrato, chiamatosi, da Don Ponio, tutti morti, insomma siamo rimasti. Vabbè, dai, ci sta alzando il vento, e vabbè, dai, ha messo un po' di peggioramento. Tanto, me l'hanno già portato a casa di radiare, quello... Quello che abita a Mansalva, ricordo sul quadrato, ma con l'attacco, questo deve essere il suo, perché ho fatto l'antenna, erano uguali, e ne mancava uno, erano tre, erano quattro invece che cinque. E te, scusi, ma non c'è problema, se si può riparare è meglio che ce l'abbia lì, che io, cosa me ne faccio io? Vabbè, i radiali sono soggetti, sono quelli che li sbavota di più. Quando c'è vento, a me mi ha portato via un tirante, infatti c'è il tubo che non può uscirla, vabbè che non è alto, ma comunque, infatti stavo aspettando un momento di calma per poterla mettere, per ancorarla. Vita. Un radiale e con tutto che l'avevo inserito dentro, l'avevo fatto un buco, ho messo il bullone passante e riuscito a spezzarlo proprio dove entrava il bullone. Ma evidentemente facendo il buco l'hai indebolito. Era fino sia da una parte che dall'altra, però tu devi contare che prima di bloccarlo incassava dentro, non sino in fondo, capito? Scusa un attimino, tu non c'hai l'antenna, quella c'hai, la mattola 1 o la 5 se non sbaglio, non c'hai il dadino sopra per schiacciare, diciamo, radiale, invece di farlo passante? Ora, quando noi abbiamo sceso l'antenna, c'erano tutti i radiali che erano, come si dice, sembrava vetro, ti tagliava addirittura, ti pungeva, c'erano tutti sfibrati, e allora li abbiamo tutti quelli lì. Abbiamo fatto, invece che, non so, la finestratura abbiamo messo praticamente, uno si era anche troncato, tra l'altro, l'abbiamo inserito direttamente il tubo in alluminio e poi fatto il bullone passante, abbiamo fatto la modifica perché c'erano sfibrati. Sì, ho capito che i radiali erano sfibrati, essendo in fibra, con un altro tempo logicamente si sono sfibrati, però dove c'è l'innesto che tu infili il radiale, almeno da questa, diciamo, dalla mattola 1, io li ho infilati, poi c'è il dadino sopra dove pressa, diciamo, il radiale. Tu invece di farmi, diciamo, il foro passante e mettere il dado, non ci avevi già il dado per pressare il radiale? No, io alla fine del radiale c'era una boccola che andava a vitale, non era diverso, capito? C'era la boccola che poi un radiale si è anche spezzato togliendolo. C'era una boccola che avvitava, c'era la filettatura nella base e avvitava la filettatura, capito? Ho capito. Ma la tua cos'è? La 1 o la 5? La mia è la 5. E non c'è lo stesso sistema della 1? No, cambiano perché la 1 l'avevano fatta prima, la 5 era, diciamo, la 1 un po' modificata. Ho capito, vabbè, la 5 non la conosco, cioè l'ho intravista, adesso per dire, non so se è presente qui nel palazzo più avanti della Sisa, ce n'è una che ha l'ultimo radiale che gliel'ha spezzato il vento, però i 5 radiali, sempre la mattola 5, quella in fibra, e i radiali ho visto che sono ancora intatti. No, vabbè, io gli ho fatto il trattamento e a me mi hanno consigliato proprio da tecnico questa vernice trasparente mancheranno sulle barche, sul fuoco delle barche, oltre il trattamento, diciamo, di antialghe, diciamo, così via, c'è questo trattamento, è uno spray che gli si dà, infatti l'ho dato tutto lo stilo centrale e agli stili. Gli stili, diciamo, sono quelli in fibra. Senti, per essere la protettiva, una pellicola. Esatto, perché lui mi ha detto, essendo sul mare, riguardo la salsedine e quant'altro, dice giusto per riservartela, capito? Tutto lì? Insomma, la mia c'è già oltre 10 anni, mi la tenda, non è il giovane, io l'ho già sceso, l'ho già tutta messa, l'abbiamo con Fabrizio, l'abbiamo tutta... Fatta rinascere, dai, perché era messa male, abbiamo messo il filo nuovo, quello che fa la massa, tutto qua. Ho capito, vabbè, c'ha i suoi anni, diciamo, là. C'ha i suoi anni, no, questa è nuova, cioè, era un residuo di magazzino, ce l'aveva buttato in magazzino, non sapeva neanche lui che ce l'avesse, infatti io ero alla ricerca, gliela avevo accennato, io avevo fatto pulizia in magazzino e se l'avevo trovata, infatti me l'avevo mandata che era ancora imballata, diciamo, ancora col nylon, nuova. Sì, io ho fatto una Grand Prix così, una Lem, che ho venduto a uno di Usi, si fa piazzare il baracchino, però non l'ha mai piazzata, non so perché. E me l'aveva venduto un amico che c'era, ma di quelle di vecchia era, la Lem, quella con le radiali 245 che ha pompato un po' con l'antenna, ce l'ho avuta anche io. E l'ho venduta questo tipo di, ve lo volevo piazzare io prima, poi ho opzionato per una 5 ottavi, venduta questo di cose di Usi, poi non l'ho mai piazzata, o ce l'ha piazzata, non ci ha mai fatto sentire. Purtroppo per noi che viviamo sul mare, diciamo, siamo soggetti, la salsedine maledetta. Va bene, dai, ok, dai, già, ti lascio, ce la risentiamo le prossime, dai. Ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. Ehi, Alu, pensavo che fossi al computer. Ti stavo dicendo, non ti fa parlare di cose, di fatti strani, cose, mi è venuto in mente, eravamo tutti in greffa a casa di un amico a mangiare, tutti in mente quella storia di Beautiful. Ma quella a riposo, sì. Non sono a riposo, sono in fede. Sei in fede, volevo dire. Poi rientri? Come lì? No, capito. Vabbè. Quelle robe. Come stai ascoltando? Bene? Via. Come al solito. E tu. Sempre fermo, sì. Mi sto aspettando. Aspettando che ti chiami il comune? Prima del contratto. Ma tu una volta mi avevi parlato di questo posto che ti dovevano dare, ma non hai fatto più nulla. Sto aspettando già. Sempre quello là famoso, quello del comune. Del comune? No, perché tu mi hai parlato di un lavoro che ti dovevano dare, ho detto se Dio vuole, me lo danno e sono a posto. Pronto, non ti hanno mai chiamato così. Sto aspettando. Ah, sempre quello, stai aspettando, perfetto. Andare. Tu pensa che mia moglie risultava che, siccome mia moglie ha fatto che... diciamo qualche mese ha lavorato in mensa, in mensa scolastica, e l'ha fatto per 3 volte mi pare. E siccome questa cosa gli dava punteggio, è andata a Gianfranco, siamo andati per chiederglielo. Risulta come se lei fosse licenziata lì, capito? Invece aveva finito il periodo, no? Dal comune c'è finito il periodo, ti pagano, ti liquidano. E risultava come se se ne fosse andata. No, poteva mangiare i bambini, dici? No, una messa scolastica. Sì, poteva mangiare i bambini piccoli. Fatto a San Donato, l'ha fatta la Budi Budi, poi l'ha fatto a cos'è Rizzito? Quello era l'asilo di Rizzito. Ma c'è nessuno? E c'era KP2, Roberto Quadrato, Compugno, sono spariti. KP2 li ha venuto la Biocco. Roberto ha detto aspettate un attimo che li stavo chiamando, e poi non si è più rientrato. Intanto non lo so che fine hanno fatto Compugno, non mi hanno detto che c'era, ma io non l'ho sentito. Attimo già, 2 secondi, aspetta. Yeah. Ogni tanto si sente qualche luna in questa frequenza. L'atleta, ogni tanto stavi che tu ti quando mi vedi non mi riconosci, Fabio, visto l'altra volta che facevo atletica, non l'hai visto, questo che c'è vicino alla torretta, ma sei sicuro? Sì, ma è strano, ma quando? È un po' di tempo fa, là. Stavo scendendo col furgone, e tu vedi il furgone che c'era scritto Granai, sceso sono io. Ah, ho capito, va. Ma non c'è nessuno, sempre nel solo giorno, la settimana si faceva frequenza. Ma come va, dove succede? C'eravamo ieri, non so tu in che canale sei andato, ma noi spaziamo, andiamo sul 10, andiamo sul 5, andiamo sul... dipende, va. Dove c'è gente, io vado. Se tu non spazio, devi verso un canale, scusa. Ma io già strappo, ho capito. Però era un periodo che non sentivo, si accendeva, non sentiva nessuno, era tutto blu, neanche la epidemia. Perché era così, è la verità. C'era un periodo che è stato 2 mesi così, che proprio non entrava nessuno, nessuno. E sono periodi magari che hanno, c'è qualche misticcio, qualche cosa, e non entra più nessuno, mai si... tornano, fanno pace, ci siamo tutti quanti di nuovo, sai, è sempre così. Ah, perché fanno ancora i bisicci, come bambini? Ci sono matti becchi, magari io sto facendo un'ipotesi, pure magari hanno altri impegni, chi lo sa? Oh, strano, perché accendevo, giravo, nessuno, sia CB, radioamatore, non c'è dubbio nessuno, strano. Infatti tocca a c'è qualche epidemia. Ma almeno nel monitor di Sassa non c'è nessuno. Ogni tanto li sento, capito? Come nella CB, guarda dentro, non è che sia diversa. Qua di solito molti fanno le cose serie e poi fanno di cazzate. Là fanno qualche cosa, raramente senti qualche discorso tecnico un po' interessante, però la maggior parte di cose sono cazzate che dico, come diciamo noi, sempre tutto lì, non è che sono migliori di noi, no? Io non ho mai fatto una distinzione, siamo tutti e due amatori della radio, punto. Penso che parliamo la stessa lingua, eccetera. Quindi, a dire una, a dire l'altra, io non ne vedo la differenza, anzi. Qua mi sento più libero di parlare, di dire ciò che voglio. Io ti la penso, non la penso io. Però loro non la pensano così, fanno queste distinzioni, capito? Loro ci come... tipo si dice, una persona sempre cattiva, cattiva nel senso disturba, bla, capito? Però poi la maggior parte si dimenticano che vengono dalla CB e hanno fatto peggio di noi gli anni che furono, capito? Perché andavano trasmettevano abusivamente, andavano tutti fuori frequenza, capito? I famosi BA, e tutti l'hanno fatto, dall'estate in poi. Però poi quando diventano radiamatori ci dimenticano che non hanno fatto peggio di noi. Così. Vabbè, quasi tutti i radiamatori sono stati ex CB, quindi. Ma io non intendo discriminare contro nessuno, però mi dà fastidio questo fatto che loro, che alcuni di loro, perché non tutti sono uguali, alcuni di loro discriminano la 27, non sono tutti uguali, ripeto, perché ce ne sono molti in gamba di radioamatori, però ce ne sono anche di quelli che possono, i cibi li mettono da parte. E che lo so, io un tempo fa un testa di cazzo glielo ho detto, capito? Perché c'è un periodo che io avevo un'aggressione fettina utilizzava la frequenza con il monitor, ma uscivamo con un watt. E questo coglione si lamentava sulla ricorda, ha convinto che non li ascoltavo. Guarda, guarda, ma perché non ti fai i cazzi tu quando è capi cercando? E non cercare le persone che stanno cercando. E non fare neanche i nomi, capito? Perché io sto disturbando. E quindi fatti i cazzi tuoi, capito? E campi 100 anni. E quello che facciamo noi l'avete fatto voi 20 anni fa. Quindi sarà bravo e non rompermi il coglione, cioè, non rompermi le coglioni a me, capito? Perché non ti sto cercando. E quindi va, finisce la tua cover. Non vale la pena di attaccarsi, Fabio. Si sa che certe frequenze non si possono usare, in effetti uno potrebbe anche chiudere un occhio, ma ci sono quelli che ci attaccano a tutto. Io mi ricordo che il dottore usava VHF e poi un bel giorno è stato uno, gli ha detto di non permettersi più di usare, c'è un sacco di casino e ho dovuto smettere. Sì, ma io ti dico una cosa, è che io entro nelle tue frequenze, hai ragione, ma io se sono appena fuori frequenza, in una frequenza che a te non ti compete, quindi fatti i cazzi tuoi, io non ti sto disturbando perché non sono sulla tua frequenza, capito? E poi ho ricordato, quello che stiamo facendo noi, sempre nell'ambito buono, senza disturbare nessuno, che quando c'è un fatto e l'antenino non disturbi nessuno, capito? Adesso queste cose tu le facevi 20 anni fa insieme a tutti gli altri amici tuoi, quindi a me non mi rompere i coglioni, non ci devo fare così, allora tu non cercare chi sta cercando, io ti sto disturbando, allora cazzo vuoi? E vabbè Fabi, sempre quello che fa vivere, che vive lascia vivere, c'è quello che non mi sembra vero di uscire sugli altri. Che non li piace di vivere tranquillo, perché se quello li trova poi succede cosa brutta. Ma per esempio tu stai provando delle radio portate, stai provando per vedere così, e niente, ho fatto prove normale, non è che stavo usando 200 watt, era un watt qui vicino in zona, uno era su un gommone qui poi di fronte alla torretta, sta facendo delle provettine, no? Niente più, però io pure sento i discorsi, che bello, qua, là, disturbo, non è che tu non disturbi quando ti sei un chilo, ma di chilo va. E ricordati che tu la porta è chiusa, non la puoi usare, capito? Io non so, allora cosa gatto vuoi, automaticamente chiusi quella potenza, non sei più in regola, anche se è la patente. A 500 watt posso. Allora, quindi cosa cazzo devi fare, detto? Quindi tu ricordati, quando tu usi 2, 3, 4 kilowatt, stai disturbando perché io ti sento molte volte che vai la potenza che c'è, ti sento che sono più frequente. Quindi, detto, controlli quel lineare. Diciamo che tutti i primi calabone erano male. Capito, detto, c'è la normativa, poi a 500 watt, capito, 2, 3 kg, automaticamente tu sei peggio del CB, non sei una persona che sta in regole, come perché che tu ce la facente, sei un impotente, fai tutto bene, no? Capito? Quindi automaticamente come dici con la potenza, sei stato fuori legge. Sempre alle riscatti, se si ritrovano la pagano loro. Capito? Vabbè, sempre tu, siamo alla pescata. Ah, ma per me, sì, a Sibia, calamari. A volte, ho preso una volta a tre, una volta a qua, due. E la terza volta non ho preso niente, non c'era più nulla. Perché ho lasciato il nero come pescato e ce l'hanno visto e hanno cominciato a pescare perché poi ho trovato in altri punti anche nello rischio, però hanno visto il nero che ho messo io come l'ho messo in terra. Il corpo, dove sei, come l'ho sfruttato, capito? Il nero loro si accorgono che c'è nero di seppia, pensa qua ci sono sempre, capito? Ah, ho capito. No, sai cos'è? Perché l'altro giorno lì di fronte a cosa, alla torretta stava pescando, vabbè, pesca subacquea, però hanno proprio un casino di fulvio, pensa che io. Sì, adesso sì. Colpi calamari, sempie, io devo freddo, c'è questa roba, A me piace molto pescare i calamari, ad esempio, perché è una pesca che si tu non perdi l'artificiale, non paghi nulla di esca, ti diverti lo stesso. Se sono buoni lo stesso, no? Perché se peschi i calamari, mi appena presi, fatti fritti, se dolci dolci sono. E c'è gente che ne ha preso anche di un chilo i calamari, io no, ma c'è gente che ne ha preso anche di un chilo. Diciamo che Fabrica adesso non fa più a comprare l'esca, ma a comprare il verme costa 4,90 euro, 3,90 euro la scatola, io ne prendevo sempre 4-5 scatole, ma te lo conto. Sì, infatti poi quando fai così che spendi tipo 20-30 euro, che alla fine ti compri i testi di bescio, vabbè, ora ho fatto l'obe, però alla fine anche l'obe sono soldi, lo so, purtroppo è così. E poi l'altro giorno mi ho beccato una bella orazione da un chilo. Sì, esattamente di fronte al presidio militare, era proprio lì questo qua. Aveva due canne a pesca, ho visto proprio la punta della canna e ho toccato per terra. E lì l'ho preso anch'io. Io lì sono andato parecchie volte, ci andavo, solo che ci sono delle voci e alla viva. Se ti incrocia lì a ganna, se butti, incrocia le belle tutto. Perché di fronte all'altro giro, qua ci sono scuri? Appena fin là, andando verso le gabine, là. Ah, ok, ho capito. Allora, la pescata era bellissima, era un chilettino, capito? L'ho fatto un cazzo, ma guarda, se ti trovo la forestale, ti denuncia perché la stai tenendo fuori dall'acqua. Ma io butta l'acqua, io ti dico l'acqua. Ma l'altro giorno io, quel giorno che c'era quel ventaccio, un mare mosso, lo sai che sono andato di notte con un amico, cos'era di sabato forse, di sabato era. Siamo andati di notte a farci un giro, e ci facevamo fumare una sigaretta lì a Platamo. Dove era un mare e c'erano due pescanti tutti attrezzati, con la tuta. Ma io dico, beh, andare altro la ributti si biombe pescare, casi c'erano delle onde allucinanti. E io metti un blocchetto attaccato. Li fa scarrocciare che. Quando è così scaroccia il piombo, non male, anche che non sia attorno, anche se di quelli che hanno la punta per inficcarsi nella sabbia, e non va di sempre sì, male così e lo va. No, se non avevo con quel tipo di mare, con quelle onde, cos'è che tu potessi pescare? Spigole, io l'ho preso, la volta che c'era, te ricordi quella volta che c'era la panna non serena, che la nave che si era incendiata, il giorno dopo Capolano. Ah, io ho fatto le foto. Esatto. Noi eravamo a Plattamona, a casa di un amico a Capolano, a mangiare tutti insieme, eravamo in greffa. E non ci abbiamo finito tutta la roba, sai come si fa? Mi ha detto, domani venite ce la finiamo, se no ce la buttiamo via questa roba. E mi ha detto, prima ci addormentiamo, veniamo verso mezzogiorno e mezzo e arrostiamo di nuovo. Io approfittato, c'avevo dell'esca a casa, un po' la tonesca, adesso non mi ricordo manco cosa era, c'era un verme o cosa era. E questo amico mio si è fatto una canna di quelle antiche, ce ne prese di quelle da 5 metri lunghe, grosse grosse, che sembrano in legno, sembra. Tu vai di un arancio, boom! E io c'avevo una cannetta di quelle da barca, di quelle piccoline, non era manco un metro e mezzo, così, quelle piccole, l'ho messa su porta canna, lancio, e si è messa a ridere, sai, come dice, vai, cazzo, mi serve di gribare le risate. Dopo già abbiamo riso tutti insieme per lui. Sono scesi tutti gli amici di lei e fanno, beh, pescando state. Totalmente tu mi sei attaccato alla spigola. L'ho portato fuori un chilo e qualcosa. E lui con la canna grande mi ha pigliato una mormoretta. Vuol dire che è capitato il momento giusto, che succede così. Cazzo, non so che succede a Plattamona, dalla rotonda, prima di arrivare a Pesciro, cazzo, come dei cani, cazzo, si avvia a sinistra, ti metti in mezzo, tra uno e l'altro, cazzo, vai la becchi, e loro, cazzo, come vedi cane. Sì, è vero. Io più di una volta, cioè, ho trovato questo militare, che stava pescando, un graduato era. Stavamo parlando così, no? Sino a quando ho preso il primo pesce, ho preso la prima ratta, e dovuta, parlando, tu ci ha baciato la lagana e ne ha preso un'altra, una porzione, però è non grande grande, ma belline, sui 300-400 grammi. E poi ho preso un'ombrina con le mussazze e cose, non avevo capito manco che pesce era all'inizio, quello guardava bene l'ombrina. E a un certo punto questo si è incazzato, ha preso tutto quanto, si è piegato tutto, detto, non è per me la giornata, è per te, ciao ciao, se n'è andato. Perché molti fanno così, si accorgono subito, no? Allora io molte volte lo faccio perché sta in un paese tranquillo, di fronte al mare, cioè sì certo, spero di pescare, però se non penso è passata una giornata diversa, ti rilassa, capito? Insomma, quando non peschi già ti piglia la bara, lui ha cominciato a fumare, perlomeno per chi fuma, è così. Io sto cercando di smettere, ma tu la fumi, farò. Io fumo solo la spinelli e basta. Spinelli? Vabbè. Bene, Frank. No, non ho mai fumato, mai fumerò, è un vizio ricato, è un vizio che non mi dica, perché ti porta, ti fa male al posto, cioè prima ti fa male alla salute e poi la porta a fuoco. E poi per me è un vizio che non ha senso. Posso accettare se te fumi due al giorno, una mattina o una sera, ma anche se fuma 20, 30 da lì, ma 40 nella sua vita, si è quasi che morta. Se sei tu, l'altro giorno era la posta a pagare, agli appostare, e praticamente c'erano questi che stavano parlando, e lui in questo caso ha detto, ma ne fumavo due pacchetti al giorno, adesso da quando ho comprato quella sigaretta finta sono già 3 mesi che non tocco una sigaretta e non ne sento il bisogno. Sì, ma è così, per me è un vizio di cazzo, io guarda, posso accettarlo, tipo un piacere, ne fumi due, tipo se ne fumo una mattina, tipo una mattinata, e una magari la sera, due basta, e poi l'indomani altre due, ma se ne fumo 20, 30, io non capisco questo vizio. Una cosa, che quelle che ti assapori veramente sono ben poche, gli altri li fumi per inerzia, perché magari vedi l'altro che se non accendi te l'accendi anche tu per inerzia, che quelle che ti fumi con piacere sono quelle che dopo che ti prendi il caffè, cosa ti posso dire, magari quando sei al computer te ne accendi una, mentre stai scrivendo, facendo, capito? Però le tutte le altre che te le fumano una dopo l'altra sono tutte fumate per inerzia, si potrebbero evitare. Io devo entrare avanti. Quanto sei che lo fumi, Gianni? Io? No, io sto ancora fumando, non ho detto che non sto fumando, ho detto che non me ne sto più comprando e sto fumando le sigarette quelle che si fanno con la macchinetta, così li fumo di manco. Io ho parlato di uno che c'era le poste l'altro giorno, si fumava due pacchetti di sigarette al giorno, la cosa ha comprato quella sigaretta, quella finta, diciamo elettronica, dice che 3 mesi che non fuma e non ne sente manco bisogno. Infatti quella nella piazzetta c'è un negozio, si può più magari costa nessa una quarantina di euro. Lui io sono del parere che se uno deve smettere di fumare, smette e non deve prendere altra roba. Per smettere, mettersi in testa di smettere, smette e come quando uno fa dieta, no? Non è che la fa piano piano e così, io la faccio direttamente. Prendo, comincio a diminuire il pane, a diminuire la pasta, a diminuire la carne, a mangiare pasti mirati, eccetera, eccetera. Così è con la sigaretta, se tu decidi di smettere, devi smettere, senza abbigliarti a altre cose. Ciao Luca, ben ascoltato dopo tanto tempo. Ma quindi non è davvero quello che mi hai detto su di te? Negativo, che cosa ho detto su di me? Di che te l'avevo arrestato? Sono bravo io, Fabri. Bravo ragazzo. Infatti però quando ci dico Luca l'avevano arrestato, cazzo l'hanno trovato di fare grazie del reato, dice che stava rubando lì a città mercato. Yeah. dopo che provaggi. Qui c'è il cazzo che siamo trovato con un amico suo, aveva fatto 3 banane. E quando siamo fermato, perché due sono per mangiarci e la terza è per... Allora ci credo, perché Luca le banane le piace. E fino a chiudere sì. È vero che ti piace, invece che fai mangiare un chilo. Se le mangio? Ah, cioè, ma noi le facevamo cose, le facevamo frullate, tipo kiwi, ma facevamo questi mescoli strani, facevamo le pesche, sempre sbucciavo e poi mettevo le frullate, le facevo un po' di frutta. Sì. Appaga. Così sono buone le banane per un po' mattute, fatte così, escono da buono. E tu fabbri cosa sei incubinenti? Femmine autunno? Io sai, mi fidanzo massimo 2 giorni, 3 giorni, una notte, dipende. Ma ti sposi? Ma così, sto bene così, tranquillo. E poi devi trovare la persona giusta, io forse l'ho trovata. Ah, ecco. Ma no, perché poi quando uno invece a rimanere laggiù, a Feume, invece se c'è la compagna, sta al calduccio con lei nel letto. Vabbè, cazzo non c'è laggiù, no? Cazzo c'è solo spizza, sape, le suore. Sì, che fine vuoi fare? Insomma, quelle suore giovani, cazzo. Si va, sì, c'è un solito qua, no, più giù. Ma testa con fuori a due. Comunque il cane ha provato, l'ha preso l'orata. Cazzo, gli ho detto, ma perché non la ributti in mare? Che magari ci si è portato la ripresi. Cazzo, magari ti porta la madre, no? Adesso mi chiamo domato per questo qui. Ma se tu non la ributti in acqua, magari ci si è portato la sera riprendi. Non sa quello con la moto carrozzella. Ma no, sono l'ho visto che ho detto la moto carrozzella. Massimo a 50, una cosa del genere. Ma lo stesso, va sempre lì. Se tu mai la butti al senato, magari ci sei fondato la riprendi. Ce n'è uno in AP50 che è un po' anzianotto che va lì, che le pesca di roba. Che quello che ci ha pescato belle mormore, la vigno è pescato. È un po' anziano, avrà un 68 anni, 70. Non ci ho mai fatto caso, stavo preoccupato. E poi Luca, tu ti sei sposato? Sì. Cioè, la cosa l'hai pianata? Se l'hai pianata? Piena? No, ancora no, la voglio riempire. Ah, così è. Vuol dire, piena di bambini? Pianata, abbruzzata. Paga, non si vive basso perché avete città la ragazza. Cazzo, non si risulta, no, si fa così, risulta. Adesso già è moda, Adesso già è moda. Maria, c'è tutti e due. Cazzo, non c'è nessuno, sapete, come prima c'erano 200, cazzo, tutti qua, tutti parlavano, cazzo, non mi ricordo, spariscono tutti. Non vi capisco. Non ti bastiamo, poi c'è qualcuno che ha detto che sei maniaco, Fabio. Cosa hai detto? Ti ha detto maniaco. Sai, io sono maniaco, mi piace la ragazza di 23. Io ho detto maniaci, non maniaco. Fabio, io mi escludo, ciao. Tu sei un bell'onfio, Zé. Sì, no, tu sei l'onfio. Io mi sono escluso. Cosa hai detto? Che stai parlando con Fabrizio? Fabrizio De André e poi c'è anche Luca. Fabrizio De André non lo conosco, già è morto, già un giorno quello. Avanti Luca. Ciao Antonio. Ciao Luca, saluto. Schierato. Ciao ma Fabrizio Barrato. Non lo ascolto bene perché c'è un problema di ricezione, è troppo basso. Stasera Miglioncino sta facendo basso di radio, è strano, di colpo, infatti ho detto guarda il volume eccetera, no non è quello, di colpo basso di radio. Boh, era a casa stasera, ho portato a casa 5 minuti. io ho fatto pure lo stereo e poi è andato via. Questo che ti richiama a controllare l'antenna? In realtà non c'entra niente, se mica c'entra niente con segnale basso di radio, solo il microfono. Ma allora, anch'io ho detto che fosse per stazionari, che c'è due stazionari. Invece basta a me c'è per stazionari. Boh. Due ha detto che c'è. Ma forse lo misura bene, parecchio. Ah, senz'altro. Bene, va bene. Allora, te lo dico prima, misura del radiale della Mantova 5. Ce ne ho interi, ne ho tre, quanto te ne servono? Quanto mi dai? No, perché io li ho rifatti, sono rimessi o modificati, devo mettere l'alluminio, non ne c'è uno. Però per non stare a salire, a misurare, a fare, lo voglio già portare col buco, perché ne abbiamo fatto la modifica, abbiamo tolto diciamo la filettatura, messi sino all'interno e poi messo il bullone passante. I 2,35 sonda, non è che sia molto. Comunque la diana non è già una Grand Prix, vieni qua a casa, ti misuri la diana una Grand Prix e sei a posto. Comunque 2,35 non lo ricordo io, la misura giusta giusta. Oh, perché se un pezzettino piccolo piccolo forse che non le faccia niente. Non le fa niente. Cioè, se metti un pezzettino da mezzo metro nel radiale, che cazzo ci sta a fare? Mettici la misura giusta e basta, prendi l'alluminio, se no ti pigli in bagno, al limite ti prendi tre antenne da macchina, caricate, ce le infili come radiale, va bene lo stesso, vento. Capitolo, quello di Ruga, quello che tu gli hai fatto il lavoro, mi ha portato il radiale a casa. Ci è aspettato tutta la fine, il terminalino della fine, dove c'è, dove passa la bolla passata, si è indebolito sicuramente ed è uscito fuori. Ruda, che è quello che è entrato in buco? Polacco. Mamma mia, ragazzi, non avevo voluto manco molto qua, mi sembra che è buttato la balcone. È il marito della polacca, ma lo chiamano polacco anche a lui. Io qui si manco un tutto, cazzo, l'ho fatto diventare scemo, non so se sopra quel tetto, salga qua, salga là, salga da poca di cose. Sono matto quello, ha trovato il mio cognato ieri in ascensore, ha detto scusi ma lì abita qua, e ho detto no perché, ci abita mia sorella qua, ma perché non so che cosa, qua entra troppa gente, non so che cosa. Tutto mio cognato mi ha detto già ma io su mamma qua e tu lo passiti, ma ha detto se lo abitavo qua o cosa, stavo per andare, mi ha fermato mia moglie, stavo per andare a casa lì, di non permettersi più di fermare la gente che viene a casa a chiedere la roba. Una volta ho detto a un amico mio di mettere al parcheggio della macchina mia, di mettere la macchina sua perché dovevo uscire con la mia. Se gli ha detto cosa? Sì, ma la luce ha fatto. Sarà per un balcone, la mobilità da così e ben bollito. Guarda, i condomini ci vestiti tutti i giorni. Stasera, mentre sono stato a me capo condomino, mi ha detto che due lo prendono la sette, gli sta cadendo la direttiva a Mattizio. E ti ascolta, fa la cosa, è un dispositivo male, fa la cosa, detto, guarda che io ho detto, sono qui sul bandiere dentro il condominio. Mi chiamo per il cancello e poi faccio un grazie, mi chiamo per le antenne che ho comprato io, del condominio, e nessuno mi ha pagato. Quindi ho detto cosa vuoi? Ho detto. Se vuoi vedere, si cambiano i patentori, non so proprio meglio, ho detto. Basta mettersi le mani in culo la gente, ho detto. Ogni tanto sale qualcuno, tocca la centralina, non so proprio meglio, ho detto. Arrangetevi. Ah, li disturbi da sette, bisogna vedere se sei tu che la disturbi. No, ma non sono io, anche perché la scorsa settimana c'era uno dei due di te non si vedeva un cazzo, la verità, non dipendeva da me, dipendeva dagli altri, anche perché io quando sono stato vecchio, al momento ci faccio figura in cacca, installate le antenne e non si vedeva né uno né l'altro, per mezz'ora. Dopo di apparso e ho controllato tutti quanti gli spinuti e cose del genere, boh, è stato stabile. la prossima pagata, se mai non mi pagate manco, perché a volte cioè, sai io come le persone sono ignoranti sul, se tu dici alla signora guardi che non si vede perché non è colpa mia ma è colpa degli altri, non ci credo, dice ma io glielo vedevo e anche io glielo vedevo ieri, oggi non lo vedo, cosa devo fare adesso? Dai, aspetto che si vada a letto la euro della terra, detto per pagarmi, ho detto. E appena sono nuovo, ho detto, non li farò a te io, certamente ho detto che deve essere pagato, non so proprio di merito se devono vedere la TV, ma sono proprio del ripetitore. Ma per lo sistemino questo capo ripetitore non te l'ho detto, intanto sparisce, riappare, sparisce, riappare. Quando fa vento, piglia e sparisce, per due, due ore, tre ore. Vabbè, già succede, anche qua è successo, abbiamo dovuto sintonizzare sulla Germania, è un casino. Non è quello che fa spesso, capito, Monteoro. Guarda, mi sono già arrivato le balle e ieri già mi sposto a Badiru per essere la biglia in culo, a me non ho problemi. Quando fa vento sparisce il segnale a Sassari. E quindi non voglio essere responsabile di niente. Appunto di là va di Urba e se la tocca in culo. Posso pigliare su quella 7 e pigliare su quella 18 e sono più tranquillo. Ma non dipende secondo me dal vento. È da quando c'è digitale terrestre questo casino che stanno succedendo. Ma poi già spiegare a loro che sono... Capito? Non sono persone che sono di questo mestiere qua, quindi va a dire qualcosa, dice io prima, come ti dico sempre, metto che all'antenna ve ne vorrei uno, che non è assolutamente vero, infatti che non voleva niente, se non avrebbe chiamato per pensare all'antenna, no? Tutti fanno quel discorso lì, si mettono le mani avanti, qui tu cosa devi fare? Soprattutto per incassare, non puoi dire alla signora, guardi signora che non è colpa mia, dice io ieri vedevo, oggi non vedo niente. Gli ha detto, il capo nuovo, l'antenna nuova, cosa vuoi di più? Infatti. Vabbè, ma ignoranza, ignoranza, poi girava di là. Io so che ignoranza, ignoranza, purtroppo non lo capiscono. Ma la vaga non c'è baracchino vicino, sennò guai, ci avevo subito piatto di mira. Anche Fabrizio, Fabrizio mascherato, fa girare per lupo, se no. Io non lo sento, io ti sento 9.20, a te Luca 9.10, e lo sento. Non è punto per verso di te, forse. Sicuramente, ma c'è, la sera grande sto usando. Non so. Allora, che antenna stai usando? La 50 e c'è un QRM Santiago 9, non lo sento per niente. Quando dici lo sento solo, non capisco cosa dici. Vabbè, tutti sfuggiti sì. E se ha sufficiente, dunque deve essere al computer. E poi mi fa bene. Vabbè, va, arrivo subito. Facciamo cosa qua. Ciao, già, salutami a Luca e a Alessio. Ci sentiamo alle prossime, avanti già. Ciao, Fabri, se sta andando via, che una buonanotte e sono loro. Grazie, ci sentiamo. Ma sto finendo una cosa qua al computer e poi fra un po' vado in 144. Dai, ci sentiamo alle prossime. La frequenza o... Sì, sì, la frequenza del letto. Vai, guarda. Vabbè. Io lo chiamo a Micoletto, non c'è altra cosa migliore. Buonanotte, quando sei stanco, l'unica cosa che dici. Ah, che bella pensione. Io lo chiamo a Micoletto. Bellissimo. Vabbè, già, ci sentiamo anche a te, ci sentiamo alle tue. Ciao, ciao Fabio. Luca, ci sei? Buonanotte a tutti. Bentato. Ah, ci sei pronto. Che io, sono andato un attimo in bagno. È una pisciata record. Fabrizio, mi ha salutati che stava andando a nanna. E io salto nei cambiati da parte mia, non c'è problema. Pagamo. E allora lì, lavorando? Meno male questi 4-5 giorni ho lavorato. E ho fatto i soldi per Natale. Non me l'ho festeggiarlo. Mi è andata bene, oggi mi sono fatto 80 euro, 2 metri di lavoro. Sono fatto l'antenna, ho messo quella parte nella cimenteria più alta che c'è. con Pallucci l'ho messa io. Ma tu lo colpo del cazzo. Ma che con la sua antenna per il ricevitore? No, no, no. L'antenna quella 25 elementi della WhatsApp è quella l'ho staccata, perché mancava lì, gli hanno staccato i cusi e ce la porti via, non so perché volevo. Quindi ho detto a quello dove l'ho staccata, che dico se è bella perché la nuova nuova, faceva i bulloni nuovi, nuovi, addirittura gli attacchi interni dove si agganciavano i capelli erano nuovo fiammati, mancava solamente le riflettori là dietro. E basta, ma eravamo. Non ricordo se erano 22 o 30 elementi. In più c'era l'antenna del primo canale che era ancora buona, che avevano disintegrati i muratori. Io ho fatto conservare il conservatore, ho detto perché potrebbe anche servire, detto in seguito. Okay, vabbè, adesso con l'antenna cadibile è benissimo, non ha nessun problema, c'è una nuova recensione con l'antenna. Oggi sono andato a cercare dei film in 3D, Blu-ray, ma stanno facendo un bel pucchi, è che c'è poca richiesta perché costano molto. E che l'ho visto, molti come direttamente in CD, cioè scaricate da internet, scusami, in 3D. No, 3D non ci riesce a sdoppiare. Perché sai qualche sito, io ci sono dei siti per attaccare il wifi, non ci sono i siti per provare, cioè per poter vedere qualche film in 3D, aio. Non lo so se si possa sdoppiare in 3D, mi pare che siano, che abbiano il codice, non si possono sdoppiare. E comunque costano un bel soldi, 38, 40, 45, Ma in tempo non ce ne sono filmati su Mediaset per dire in 3D, ci sono, ti pare che registrare, no? In TV, in 3D non te ne trasmettono, capito? In HD sì, in HD ci sono dei programmi in HD, poi se ti metti anche Sky, tutti in HD. Sì, vabbè, già ci saranno i comunque film in 3D. Ricordate che ci sono le promozioni adesso per vedere i televisori, quindi cioè ci sono televisori da usare in 3D, dovuto a definizione, e considerate che uno smart pod e cose del genere ti danno la spesa per casa, quindi come nel Rubik si chiede direttamente lì, senz'altro c'è qualcosa, se non è possibile. Dovrebbero vedere, io mi ricordo che c'era una promozione dove c'era tirava il televisore e 20 filmini, e 20 film tiravano. Oh, quando noi siamo andati a comprare il televisore c'era praticamente il televisore che aveva il lettore 3D, tirava 6 film in 3D. E tutti ti dava gli occhialini. Io non l'ho preso perché costava 3 volte di più e li facevano pagare. Sì, ma io mi ricordo invece che c'erano 20 filmini, gli occhialini e in promozione, adesso non mi ricordo che caso era. C'era un X, qui cavolo era che stava andando. O un Io. O Media One, non me lo ricordo la verità. Comunque. Vabbè, sai, peggio di me che questa cosa non è ancora, cioè, non sono andato avanti più che altro, perché costa un sacco di soldi, quindi ti conviene al limite aspettare un po', una volta che c'è il commercio, se tutto va bene, riesci a avere i film a poco prezzo, così su dei piedi come fai? Non esiste, no? Mi sta venendo su Nicchiolo, ti saluto, saluto anche tutti gli ascoltoni, vi auguro tutti buonanotte, ci sentiamo le prossime, ciao. E ciao Gianni, ci sentiamo, buon cuore, buon tutto alle prossime, stammi bene.